dorme. E beh, e allora? Dormi, dormi. Chi arriva la pappa a casa? E allora, lo sai che io sto sempre bene? Tu sì, sì, la faccia un depumaro, gatta. Beh. E allora, oggi è una ventata di noi la depumaro. Ma sei oggi? Oggi ha fatto bella giornata. Meglio di ieri, ya era. Già lo credo. Ma è vento, è freddo a rimane. Mi ha pizzicato. A chi so che andò a pigliarmi, leva. Catta. Ma tutti fuso. E mi fate male l'ora e un raffreddore. Bravo, G. Allora, buono, ci ripeto a moglie, usare e ti basta tutto. Forse un travaglio io. Mi basta subito. E allora? Si vuole ripetere a muso, usare le va fredda, sai come si ti bassa? Sì. Figura una bella imbriaghiera ti bassa. E allora, limoncello? È l'unica isa, se no non ti bassa, Te la metto forse a risoio. E allora, se no ti vedi un bel GB, una pulla. Eia. Beh, oggi già ti sei assoliato, Oh, è un burro, è in sala. Vera, tutta la delusione. Ma, si sta già veramente bene. Oggi c'è un poco di sole stamattina. Lo vaccone, la mamma ha pigliato un poco di vento. A chi ne rientra lì, chi sa roba in pilatezza. A chi fa il vento, ma che è asciutta. No, non so che si dubbi oggi, Oggi era tutta in casa. C'avevo gente a pranzo. Per cui l'avevo finita che era alle 4 e 10, una cosa del genere. Da poi mi sono entrato in sala e mi sono cassuriato. No, lui era mi sono lui. Oggi ha cucinato risotto al zafferano. Buono, Io da un mese sta a farlo. È tutto buono. No, l'ho mangiato volentieri, era buono. Vediamo un po' se c'è Tore. Oh, ma chi si va a sei in mezzo alla gaura, deve essere con te di fondo. E allora, chissà che appena ne va, Gigio è sempre in giro. Con un cane, Gigio sta appena in campagna. Non si può fare niente che perché è troppo moda la terra, capito? Non si può fare niente, salvo che ci va già zappato 30 riserri. Certo. Ma pure non si può fare niente. Bella giornata, era bella giornata, per cui non si può abbia tagliato l'erba, boh. Non penso. La terra è zuppa e non che veda stamani un camion con una gru enorme, hanno impuntato l'antenna che è nata lo grattacielo di telefonini, l'hanno spostata più al centro del grattacielo, un abisso di gru di mezzina era, ma enorme. Cosa ne fate di grattacielo? Hanno spostato l'antenna che c'è per i telefonini sopra, un'antenna a mano. E vedi la gru di Messina, quella grandissima, enorme, più a cadere un grattacielo. Oggi l'hanno fatto, così? Stamane, hanno finito verso le due. Gru, ogni gru, tu mi vedi un mostro. Chissà gli è grugia. Chissà, mio barbogo costerà 100.000 euro, se non pure di più. Allora il vostro monte lo vedi, che sia? No, l'hanno mollata da dov'era sul tetto, e l'anno sono stata un po' più al centro, poi l'altra più piccola, la ripucca da più ad Ananzi, dalla Frabassi, sempre una traga bicuria, quello che era tancere. A chi mi pare di venire qua, l'uroco va a piazzare tutti i pannelli solari, paracorrente. Ah, sono sempre miserente, gli dirà, gli avviso, tanto non dico ne sono ne so guadagnete, dirà, dai sul telefono, così che gli dirà, avviso, sono sempre attrezzature nuove, moderne, fanno bene, fanno bene, però è... sai che papà finisce tante di che vanno che mi pare di dargli 10.000 euro al mese al condominio da Grattacce. E la canta chi sta al condominio o alla legge popolare? No, al condominio una parte anche alla legge popolare, con Grattacce le legge popolare, però una parte va anche al condominio. E allora hanno i guadagni, le dirà, da, da, va bene. Ma quindi una, l'altro grattacielo buro per l'antenna del telefonino? Ah? L'altro grattacielo per l'antenna del telefonino buro? Pure nell'altro c'è, cioè, ma è che da poco non viene molto buro un'altra più minorita, sarà un paio di mesi fa, ce ne sono due, una più grande e una più minore. Ehi, ehi, già andava bene, sempre, bisogna produrre l'era dei telefoni, uia, dei diassi o guadagnati, gatta, boh. Io mi avevo bugato, dimmi, a Vasca di Vodafo, pago 30 euro a Romizia, già. Internet e la linea fissa. Io al telefonino mio pago 6 euro 99 ogni mese, boh, e c'ho tutto, boh, in casa non ne ho, l'avevo tolto, mi basta il suo telefonino, anche noi abbiamo il telefonino e siamo a posto. E anche io ce l'ho 10 euro al mese pago. Vabbè, però poi c'è sta cazzo di più. Più bel cubizio di casa come telefono. Già ce l'ha il cellulare lì. Pago lo stesso 10 euro per quel cellulare. Ma con questo di casa c'è cazzo più bella. Dai, utile, dai. Dai, utile, per cui, vabbè. Chi c'è di casa, no. Chi c'è di casa era tutto un magna che ti magna. E per cui non li mangia più di là da me. Ogni tanto ho telefonenti a tornare ai chivi, no. Basta, li danno i telefoni in faccia sempre ai clienti. Tanto basta come ci sono, che sono cappuccio io. Ovvero? Vabbè, io la giù passato a volta quando i batti tutti questi, dalla disetta alla Timmy e tutto quanto. Vabbè, ma se non mi aumenta che è così, già mi sta bene, là. Però se aumenta quanto ha fatto la TV, mi do quella di testa subito. La TV fate, come te fate tutti i lastri, la matessi cosa. Tutti vanno il primo mese, da voi come sta, aumenta. Allora non ne mangiare più. No, la TV mi ha fatto uscire, se ne arrivi da 50 arriva a Rumisi, a Viravu. E la volta fa adesso sono messo a Vodafone e pago 30 euro per 2 anni. Poi fra 2 anni pago 29 euro, ma tutto. Si dà buono e così, gli do quella visetta e si ammazzano. Io pure abbiamo un contratto, ma 3 anni li abbiamo pagato sempre la stessa cifra. Ecco, guardate, se aumenta 5 lire, 5 centesimi, faccio la disetta, No, dice, per 3 anni per fare solo questa cifra. Dopo 3 mesi ha ricominciato a aumentare. a metà. Ha giubilato un telefono, me l'ha già fatto, boh, da oggi posso la ricetta. E ha già fatto la ricetta. Ma la dire di un crocco. Ehi, la papera dice, se da voi fate ne a capo su, io se li manda il suo bagno. La intesa rimane a un telegiornale, paura assassa, di punta al coltello alla gola di un negoziante e ci fa consegnare l'incasso. In Viale Italia, quel negozio di sporto che c'è. Sarà divisa la televisione. C'è su internet, roba a macchina. E non ha né cuccata, visto. Allora, in faccia alla farmacista, poi fugge. 70 euro cagate e va via, roba a macchina, fa 70 euro. Questo, visto che era pubblicato, è pizzato, a cappello, pizzato lo gabbo, a che tanto lo fa di sempre, visto. Grazie, devo dar caso, dai, fra 10 minuti rientro per tutta gente. Ehi, già è acceso qua, chiama, ok. Ehi. Tutto gufo. Dormito ieri. Che ci fai accendo? Sto guardando internet, c'era un gattino fuori sotto la neve. Covarino, si era congelendo. È uscito un cane dalla cuccia, l'ha pigliato e si era entrato dentro la cuccia. E l'ha cuccato le casenna, va. Covarino. Che cosa bella, mamma mia, tutto gonfio, sono mio. Quelle che mi racconti, mamma mia, ma però... Era un padrone, era la gattubura, poverino, era, se era congelente, era congelato. Testa ruina, l'ha pensato, un cane si era appucciato tra la cuccia. Ho capito, lasciamo, lasciamo da bagno. Stava fuori a farmi una doccia, buh. Perché non vedi? Nessuno abbassi, no vabbè, stamattina stavo sentendo un computer, dai, tutto pulito dentro, fatto, era pieno di polvere, l'avevo portato qua, la marina, nella vicina di casa, ed è perfetto, l'ho acceso, ho messo a posto l'alimentatore, c'erano tre condensatori scoppiati, infatti mi ha acceso, poi non l'ho acceso più. Ho dovuto mettere un alimentatore mio per installare il sistema operativo perché c'aveva un altro sistema. E poi gli ho riparato il suo, ho rimesso di nuovo il suo. Se no da un disotto, grazie. Ehi. Ma aggiungi che era tutto sarrato da Marina, ieri, stamani. Ha detto, dove c'è Luca, non vedo, sarà travagliato. Oh, buonasera, tu Sarra. Graziano, qui ci sono in ascolto. Buonasera a te, la mattina apre per far entrare un po' di luce, capito? Ma io non ci sono qua la mattina, no? La mattina io dormo a casa, grazie. Te l'ho già spiegato. Ehi, ma giudi tu, oggi che la verdadiera di tu Sarrato, vuol dire travagliare Marina. E Marina lavora tutti i giorni, grazie. Tutta salie. E mi dico sì. Vabbè. Niente, c'era Gio Maria, però hai giunta niente, ci ha sentato. Ha detto già rientrato più tardi. Adesso oggi più roba io che un negozio di abbigliamento. Non mi sa di più nulla che l'armadio. Sta più niente. Adesso devo cercare il pantalone, se incazzarò la zescito, pantalone blu, pantalone mentre, che si ricarica lo scaldo a bagno. Ehi, e perché l'ho staccato? Io lo lascio sempre attaccato. Grazie, Maria, non lo si fa la doccia, che si lava i capelli, ne consuma il triplo di acqua, capito? No, io non vi è sempre attaccato, infatti è sempre attivo. Cosa, grazie? che qua è sempre acceso, sta sempre sotto carica, la usiamo spesso l'acqua calda. No, ma anche qua, no, ripeto, uno si fa la doccia lì, si aveva i capelli, ne consuma il doppio, dai, capisci? Ma l'inverno è così, hai sì magari di meno, ma l'inverno, chi dà una diattoppa, torna ricoverata l'anno, deve essere pur camare. Quando c'è quella malattia che non è presa subito, sei fottito, sei fottito, capito, grazie. Mi sa che chi tu entra e ci da rifidare. Sarà, io la vedo male. E appena si fanno tre tacchette vado anch'io a lavarmi. Oggi per freschetto, la macchina per un sole. Stamattina c'era a casa, stamattina sono andato a fare delle commissioni, lì alla SIDA è andato a prendere un po' di pellet per i genitori di Marina. Era in macchina, stava benissimo, facevo anche il finestrino abbassato anche. Ehi, no, io l'ho preso avanti lì, però oggi ho pigliato un altro sacchetto a provare questo tipo di pellet, già è a pelle, però lo devo provare se è buono. Sì, grazie, devo andare a vedere la corrida il febbraio, sto 7, febbraio c'è scritto 16, non c'è scritto febbraio 2019, è cancellato il 16 o no, pari. Miau! E non è la corrida! Mosci, mosci! La corrida non è! Mosci, mosci, mosci, mosci, mosci! Graziano! Ciao Vittorio, ti ho sentito piccolo piccolo! Dai, amico! È vero! Capito, grazie, dobbiamo andare a vedere la corrida, il giorno 19, il giorno 16 febbraio, 10 euro si paga, nah, così andiamo, passiamo una serata diversa. Dov'è questo posto? Teatro comunale, grazie, la corrida a Sassari. Ah, non mi interessa, è un adino con la corrida, basta intacciare, più corrida di vista. Pone di voco la corrida. Ciao a me, Pomponio. Stava per queste cose. Lui. Ma cosa scusa, spunta. Io, quando c'è il vento, mi clocco. Cosa hai detto, Antone? Dice, ma Luca sono. E Vittorio, non lo so se lo senti. Già lo sento, Vittorio, a volte. Già lo sento, c'è il bippi della Brondi. Aspetta, Vittorio stava parlando, ma stai dicendo Pompo? Ho detto che Vittorio già lo sento a volte, c'è il bippi della Brondi. Ehi, Brondi chi balla? Si riconosce subito, si riconosce. Sì, ja. Vittorio, dove sei? A Rusalesiani. Ah, oh, sei arrivato un bel forte poco fa. Passiamo qui qua in zona. E perché dove? Sempre qua, vicino a te. Qua la latte dolce, dai, dove c'è Barsana. Ma ci sono ancora oppure no? No, non sono a Barsana, vicino ho detto, a casa però. Chi fu l'aveva freddo? Ah, ho capito. Io sono anziano, capito, non posso stare fuori, è troppo freddo. C'è. E lui è vecchietto, è con il baccolino, qui tu. No, sono anziano io, è diverso. Sono più anziano di voi, voi siete più giovani di me. Io sono, diciamo, il più anziano della frequenza. Ehi, c'è anche la lettiera, Vittorio. Dopo Gio Massimo, prima c'è Gio Maria, come anziano della frequenza, poi ci sono io, anzi, Graziano. Che fa qua? Lui è bello. E gli freddo, ma un faccio. Pomponi, non lo so. Pompon, tu anziano sei? Ehi, sono anzianotto ormai, ho 80 anni, capito? Quanti anni ci sei in frequenza, Pompon? 70, 80. Da 74 adesso. Picciata, 44 anni mi si frequenta. A chi quanti anni vai? 55. 44, 55, da 9 anni è iniziato. Piccolo e sincero, adesso che Giazzo Giovanni ha cominciato con la più piccola di me. Figurati, mi stavo chiedendo, ho fatto la cazzata, posso farmi comprare una bicicletta, mi sono comprato il barattino, 120.000 lire avevo speso. Praticamente ho iniziato a 9 anni, perché io ne ho 44, ma te lo conto. Sono dal 74 io. Vabbè. Praticamente non ne ho manco nato, dai. Esatto, sì. E il più giovane ero io che c'era nella frequenza, il più piccolo. Tutti gli altri erano tutti grandi, capito? Tutta gente grande. Chissà chi era il primo primo? Non lo so, non ho conosciuto il primo primo della frequenza. Ma comunque, vabbè, parlando di proprio vecchi vecchi, vabbè. Gio Maria, dai, poi Tore Alan Verde, poi vabbè, ce ne sono tanti, adesso io non mi ricordo. Ce ne sono tanti, tanti, anche prima di Gio Maria, una marea ce ne sono stati, va e Giubina va, ci sono sempre stati. Beh, quello è giusto, grazie, ce ne sono tante, non è che tutti siamo giovani, no? Vabbè, grazie. Io non li ho conosciuti, io sto parlando di quelli che ho conosciuto io, capito? Nell'anno, adesso non mi ricordo se era 92, boh, 90, non mi ricordo, sono sincero. Tanti, tanti, tanti, sono tutti morti, morti secchi a balla. Sì, troppo ti passiamo tutti, Non è che tu, non è che tu tenessi vivo, No, che io mi ho fatto un contratto speciale con Lucifero. Figurati. Cro, cro, si boccia a tutti. E lo vero è. Avvero me. Poporio, diglielo tu a Luca. E c'è stato il vecchio CB, ma pieno, la storiera. Figurati, il primo radio club abbiamo avuto al centro storico, capito? L'avevamo fatto lì, poi c'era stato l'altro con Giovanni Freccia, dopodiché, boh, tutto è finito in malora. Antoni, ce n'erano un sacco, ce n'erano lì al monte, in piazza Orso, e dappertutto erano. Alla Teloce, lì vicino a Mario, no Mario, a Gio Maria, dietro Gio Maria, in via, come si chiama, via, se non mi viene in mente il nome, c'erano due ragazze che parlavano insieme al padre. Capito? Che non le ho più sentite. Una si chiamava Monica, l'altra Alicia, se non mi ricordo male. Delia, Caterina, il padre faceva l'autista, era camionista. Il soprannome mi ricordo, Breghe de Bre. E parlavano le figlie, i figli, la moglie, tutti parlavano. Sì, già lo so, ce ne sono stati anche parecchi di ragazzi a Sassari, era pieno, c'era la fila, tutti andavano a cercare donne, in macchina, scendi, io scendi che sono sotto. Ma veniva un be, io mi ricordo, ero ragazzino, però, li vedia un poco sotto a casa macchine. In macchina con l'antenna longa, più di una n'hanno curato dalle macchine. Vieni con l'antenna, con la grondina, quando parava lì non c'era più l'antenna. Era pieno, la croce era piena di ragazze, c'erano mi sembra 3 o 4, poi al monte c'era, vabbè, Luca già si ricorda, Silvia Lamparida, Silvia Splendida, poi c'era l'altra Silvia, e tre ce n'era. Ma che qua mio, sino cosa devo dire? Un 10 anni fa qui ce n'erano, c'erano anche ragazze qua vicino dove sono io. Adesso già ci sono sempre, ma non ce l'hanno più. Era pieno, pure qua. Lì vicino a te c'era cosa, il figlio di Simba c'era, che bazzicava sempre vicino al negozio di Usero, vedo io, veniva Luciana, la figlia di Salvatore Mustafa, perché c'era innamorata di lui. Tutti lì veniva, tutti lì. Qui c'erano un sacco di ragazze, addirittura una, quando ha conosciuto mia moglie, non si credeva che ero la moglie, che era il marito di mia moglie, che mia moglie la conoscevano con quella, no? E non ci credeva che era il marito. Figurati, vabbè. Sempre questo in via Mendola c'era uno che c'era una tipa che aveva una voce allucinante. Si chiamava Luce del Mattino, si chiamava. Ti faceva avvertare solo a sentirla. Quella l'ho sentita anche io, un sacco di volte, ma tantissime, ce n'erano un sacco da questa parte qua. E ne ho anche conosciuto molte. Adesso per dire, chi abita lì punti, nel palazzo dove lavoravo io sotto, lì abitava lì, quella ce l'aveva lo stesso, quando abitava là te dolce. E poi però non è a più continuato. Ti stai dicendo la sorella di coso? Di Badanautica. Beh, non me lo ricordo, Delia questa si chiamava, e un sacco di altre ragazze, ma tantissime, anche degli punti, ne conoscevo un sacco che ce l'avevano agli punti quando ce l'avevo in macchina. Favidavo mia ricca all'ora di pranzo, no? Pranzavo lì io, perché c'avevo un'ora di tempo e in macchina poi mi accendevo il baracchino e parlavo lì alle punte, con tutte quelle. Io me lo ricordo. Avanti Luca. Luca! Ma niente! Sì, grazie, stavo cercando il campo d'atterraggio, c'ho mal di testa. E come mai questo mal di testa? Avrei preso freddo. Oh, come l'ho messo nel letto, stavo giocando col telefono, poi se l'ho messo male, sta cavolo di cervicale che ogni tanto si mette in moto e rompe. E rompe i pipirizzi. Ehi, quella ce l'ho anche io, però mi vieni di più freddo poco poco a rubuto. Mi butti, poco freddo. Vera Antone! Ti viene, no, non è che ti venga mal di testa, ti viene capogiro più che altro. Poi diventa il collo rigido, rigido, capito? Ed è un casino, già lo soffro anch'io adesso. Quando ero in moto, è che le conosceva di questa roba qui. Mai avuto nulla, perché ero sempre in giro in moto. Mattina e sera. Come ho mollato la moto e sono rimasto in casa e ho cominciato a avere i dolori. Oh, dov'è il teatro comunale a Sassari? Il teatro comunale di Sassari? Quello che c'è via Umberto, Il teatro comunale di Sassari è quello di via Umberto, sicuro di sì. Eia, quello lì è proprio lì, attaccato alla provincia. Lì c'è il teatro, c'è. E neanche grande. Ah, no, non è teatro verdi, quello lì non è comunale. Oh, buon po'. Io so quello che è comunale, quel teatro lì. Poi se ne hanno fatto qualcun altro, non so dove sia la verità, Ma non è al corso il teatro comunale? Dov'è? Mi sembra al corso, vicino a quel cinema che c'è, appena più su. Sarà lì, non lo so. Dove c'è al corso, dove c'è il cinema, dove c'è la... No, qual è l'Ariston? No, quello è il moderno. Cinema moderno è al corso. Sì, ma di fronte al cinema, appena più su. Io mi ricordo che c'era un teatro comunale lì. E non penso che sia quello. Io Di fronte a cosa? Che ripara video. E quello era il teatro comunale. Ci sono andato tante volte, ma un bel tempo fa, È lì sicuramente. Dai, mi assento, grazie. Ci sentiamo dopo. Ehi, è stato lì. Mangia, che grazie, mangia, c'è di poco. Ehi, amico, la scatola qua. Sei pieno, una scatola grande. Chi ne mangia più vigne, cosa ne so, che deve essere crescini la luce. Come i salattini vanno allora quando vai al bar e cominci a mangiare i salattini e non riesci più a bere la birra. Davvero, mi aveva la gabbetta di bigliato un colpo, cazzo tutti che cose mi trovano. Hai fatto bene, almeno mangi i datteri, già sono buoni lo stesso. No, perché mi dispiace se poi si guastano se non li mangia nessuno, Cosa grazia? I datteri! Ai! Ehi, ma quelli si mangiare subito, è un peccato sì. Ma non mi posso mangiare la cattura ai datteri, cosa gioco? Un cammello! Antoni! Dimmi tutto! Intesa la vittoria! Che sono buoni i datteri, e la giurista, ma non me ne posso mangiare una cattola, mi me ne ho mangiato 1, 2, 3, 4, 5, 6, boh, basta. Se lo diventi un cammello. No, ci fuori, e mi crepo. Ma vai, la glicemia ho tu senso. Sì, me ne ho mangiato. Ma non mi credi, lui, mi ne mangio 4, 5, 6. È sempre bene sta cattola. Ti sale la glicemia, devi abbassarla, amica, lo sai, mettici un po' di sale. È una scatola rettangolare. Ah, ecco. E pensavo che a Natale li mangiavano, evidentemente non li hanno mangiato. Mangiali tu per quello, fregatene. Per guastarsi mi rimangio piano. De Greniber, Rina, Viginale, Francia, non si comprende, è scritto in arabo, cosa è? Comunque 2 kg sono. Cosa lì dai, cosa lì dai? È scritto da tele de glede nour de Tunis, forse sono della Tunisia. Eia, della Tunisia sono. Dove sei dato psia? Sono tunisini, sono questi dattili. Ci sono i cammelli, il disegno nella scatola, nel deserto. E Alibaba, le 40 ladroni. Edo, gli tunisini sono. Chissà, ci avevano scalasciato sopra senz'altro. No, te grazie, cosa ti sei preparato? Stanotte devo fare gli spiedini. Buoni. Spiedini d'agnello. No, spiedini con coniglio o peperoncino, tutto mischiato così. Io... Vittorio, cosa si mangia? Ali di farfalle, cosce di farfalle domani a pranzo e zampette di coso, di... come si chiama Marine? Zampette di anguilla. No, oggi a pranzo risotto al zafferano, buona legge era, mi ha sbagliato un piatto e mezzo, lui. Catta, bubù, bravo la glicemia, grazie, cro. Non me l'ho misurata. Io da un mese senza magliarlo, risotto al zafferano. Buona rete, via! Cagliumi! Oh, yeah! Tu fa, però aggiungo ciccia, la poi piano piano aggiungo un lucido, da in tonda che bruciava il trucco. Ma ti sei ma, che ne poni mi lo altro un po'? Vabbè, grazie, ma così moriamo di te, ci dai. E allora, poi c'avevo i sofficcini, quelli ripieni, dentro c'è il prosciutto cotto col sughetto, e gli altri sofficcini erano con gli spinaci e il prosciutto sempre. Buona rete, fatti un po', Rumi. Ah, battucci di Pintus. No, non mi piace niente. Prima già li mangiavo. Evidentemente ne ho mangiato troppo e non mi piacciono più. No, quelli ripieni sono. Mamma mia, sì. Che cosa buona. Beh, vabbè, ma alla fine io non è che ci mangiate soltanto pasta, bubucci con i carciofi, no? Guarda, ho mangiato anche pasta con ragù, ho mangiato, perché mamma aveva fatto anche il ragù. Ha trodiato, almeno. Patate e carciofi li ho mangiati l'altro giorno. Buona rete, oh yeah. Buone, è proprio un burro quei carciofi, signor Battato. Ti si ciuglia in bocca, Luca. Ah, Vittù, trodiato hai almeno. Caggiuto. Sarà cagato in naso. Oh, buone, ma ci sei ancora. Ma Torello fa un incontro con la Dreger. Ah, Torello, ma stai bevendo la birra? Beh, ho cagito pure Antonello, Luca. E mi stavo facendo la barba, non ti sono portato in bagno, così vi ascolto. Vabbè, Luca, fatti la barba, fatti bello, fatti liscio liscio, se no Marina gli ha rosati e si cuti dal bacco. No, io tengo sempre il pizzetto con la barbetta, grazie. Io ti ho ragionato di... Senta, non mi vuole Marina, se ne tagliavo tutto, mi ha detto, no, ti voglio, sembra una femminuccia. A Paletta non le piace quando mi lascia la barba o il pizzetto. Non gli piace, gli dà fastidio. Ah, vabbè, la mia già è curata. No. Poi a seconda, dai, molte volte dice che la pungo, che vabbè. Ma già non si lamenta, dai. Non sai cos'è. A me dopo che se me la lascio 2 settimane comincia a darmi fastidio. Un prurito, ma pare che faccio di babbozzi in faccia. E mi la sembra che c'ho no, cosa in faccia, e ando e mi grasso, eppure non c'ho niente, no? E invece sono i peli della barba. Ma già mi piace, però mi dà di fastidio. Basta. Vabbè, dai, mi assento. Vabbè, quando rientrate chiama, già sono qua. Ogni tanto mi sposto, vado a controllarmi la zuppa. Vattene bravi, o vi tiro la bibliocula. Di dove siete? Io sono di San Massi, di provincia di Cagliari. Non è vero. Come non è vero? Sono qua che sto lavorando, capito? Faccio lo scarico in camion. Luca, ah, mi chiamo Simone. Sto dicendo che mi chiamo Simone. Sono l'amico di Massimo. Conosci Massimo? Non posso, sto drogando, dai. Grazie. Io ho iniziato a fare casino, Tu due culo stai zitto. Cosa hai visto? Ma non fai casino. Basta. Stai zitto. Dopo tu due culo stai zitto. Andato mi avvicino lì a Salesiani. Poi te lo posso vedere io. Tipo abbastanza di Cagliari. Tanto già so chi sei, non ti preoccupare. Dammi il tempo, sono lì, tra 10 minuti sono lì. Sono Marco, del relatorio di... Sono Surgi. Singaro. Luca, mi è successo qualche cosa? Vittù, sì, ogni di usi, un'iadi, la lasciamo perdere, va. A dopo, ciao. A dopo. Grazie, ma c'è ancora. Oi tapolisi, Simone, ci sei. Bella grazia, ma ci sei ancora, mamma mia, non ti ha giù più inteso. Già ci sono, stavo guardando la stufa. La stufa? Prego, porca no. No, se c'è la pelle te dentro, già ce n'è. Ehi raga, cosa ci vuoi fare, mamma mia. Lo sai che qua c'è freddo. Ci vuole, sai. Chi è entrato? Simone di Cagliari è entrato. Ah, vero? Lo stava parlando con te, l'ho sentito dalla camera. Oh, grazie a me che fettore che viene dall'antidoti, non so cosa, chi mi sono sempre chiesto di tenere i ballacci. E tu vai e tiragli il collo. Io il collo, mamma non me ne ha fottuto nulla, mi ho visto i magazzini, io ti lascio grazie, io se non mi lavoro pronto a queste cose. Ehi, il giorno che esco già gli sento io, gli arresto tutti. Ah, non so se Luca è davvero oppure cosa. Luca già viene davvero già. Ma vai. E allora? Il cazzo. Occhio che c'è la mazza da baseball che li usa come birilli. Oia, la carga di da Luca, mamma mia. Luca se si arrabbia è cattivo. Oi, è tutto che c'abbia il pizzetto dritto. E come mi tocca pizzato io? Hai visto quel pizzetto? Oi, se si gira verso in alto è arrabbiato. Me lo immagino. Vediamo se mi sente. Luca, ci sei? Pomponio, Antonello, ci sei ancora? Antonello deve essere, si sta facendo una berretta. Logo di imbriagare, a casa non ti piace imbriagarti, grazie. No, io non ne posso bere, no, acqua. Acqua è buffo, hai visto, no. Ehi, acqua sgasata pure. Ah, quello che tu sei, come ti si chiama, tu sei di ma me non me ne ammento. Diabetico sei tu, no. Ehi, ah, ecco. E allora non si può bere. Mamma mia, cavolo. Così, Vediamo se risponde Antonello. Pomponio, ci sei? Niente, deve essere con la bionda. Adesso non si mollano più. Raga. Se la sta risucchiando tutta con la cannuccia. Con la cannuccia. E allora chi è senza denti? Addirittura pure con la cannuccia. Mamma mia, Gianni si ritende poco. C'è una cannuccia a 2 metri. Tira da lì una moto pompa, Che strada, la pompa. Ma non usa l'aereo, la pompa. Ma deve avere fiato. Antonello ne ha tanto fiato. Dai, dita, mamma mia. Quando c'è vento, perché lui soffia. E poi piano piano usa la pompa. La moto pompa. La moto pompa. E allora fa già il risucchio. E sta risucca, non usa l'aereo. Ehi, non te lo guardare così, no. Vediamo se mi sente Luca. Luca, a chi sei? Luca ti farà più dritto un lavandino, un rasoio della barba. pazzo! Se trova l'avanti, non l'avanti uno, c'è la barba, e cos'è? Si sta aggiustando il pizzetto! E allora la caruffa! Boh! E invece quell'altro non si sente, quello di Cagliari, com'è che si chiamava? A me lo viene a mento! Simone, così! Simone di cognome te lo ricordi? Gallotta! Ecco, ma tu vedi? A te, sono capitanesu! Eppita, mamma mia! Non c'è, no! Caruto, Mi pare che il Luca ti sci davvero me. Con la mazza da baseball. Mamma, mettendo la riconosco la macchina sua, mi sa ti credi. Ma le altre macchine, non c'ha solo quella che hai visto tu, no? No, se ho visto bene mi sembra che è una Ford. Ma c'è anche un Maserati giallo. Oh, è vero. E allora? E allora me la sapessi. C'era anche cosa e non si è più sentito. Vediamo se c'è Bacchigia. Bacchigia ci sei. Bacchigia deve essere zappando in campagna ancora. E Tore non c'è. Tore ci sei, batti un colpo. Niente da fare, riprendi Vittu. Sì, io gli dico che mi avvisò, se lo andiamo. Tu già lo so che ci sei, se ci sto parlando. Poi da Carmino, se ci sono convincenti dai nostri. Via. Gio Maria ancora, c'è gente, non è entrato. Mi pare che... Diamo un po' di spazio a ver se entra qualcuno. Chiamali tu a vedere se ti sento. A farli chiamata tu a vedere se ti sentono. Tore! Nulla! Evidentemente stanno facendo cosa? Aspetta due minuti, già rientro subito. Eia! Uffo! È lì! Grazie! E questo è il giorno di Grazia! Già ci sono! Lui, finita la barba! Adesso compro un tessì! Ho fatto la barba, la doccia, mi sono cambiato, mi sono pettinato, mi sono fermato. Le mutande cambiate te le ha? Ah, mi ha lasciato quelle di ieri, ma così mi, cioè, le mutande costano, e poi mica sono sporche. E il detersivo costa, già lo so, ma gli dai una ciacquattina così. Io le tengo tre volte, dai. Tre volte mi faccio la doccia e le tengo sempre le stesse. Anche mica su Cumacco, costano le mutande, io le pago un bel. E allora, da voi, costano sì, vero Vittu? Però tu, Luca, non devi... Allora, tu sai cosa devi fare la prossima volta, però non è che poi dici di che vieni e poi non vieni. Tu devi far vedere alla gente che tu devi invece venire e farcelo vedere. Capito, hai? Se mi dai un tempo di venire, sto arrivando, aspetta, arrivo. E lo dicevi. Ecco. e ti avvicinavi al Salesiani, anzi dietro anzi il cammino c'era tutto, ti avvicinavi a prete e glielo dicevi, mi guarda ci sono tu, ci sono questi amici di Bogo, non so come dico, che stanno giocando con le apparecchiature e basta, poi passa il prete, no? Cioè ti pare che io sono andato a Obredi a dirgli che ci sono quelli, a futti a sé a Ghidu, ma non ci penso nemmeno, no? Lascia aperto, cosa la prete? Lu, tu lo stai dicendo, mica il prete, mica il prete me l'aveva preso perché, proprio perché dicevano faccia, ma non me li volevo avere neanche in mano. Ma io non posso stare lì a andare alla prete a dirle che c'è, ma la futti assai a me. E poi se ve li prendo non mi interessa, cioè, uno si comporta bene così. Ciao Giomari. Ciao Lu, buonasera. Ciao Giomari, ben sentito. Sta uscendo solo. Forte e chiaro. Ecco, sono lo chef, a te. E chi è? Grazie. Eia, sono qua, dimmi tutto. Ah, grazie, sì. Ma che Vittorio c'è, è vero? Eia, che Vittorio, non lo senti, già c'è. Anche lui, ma salutati, salutate, non me ne manco inteso. Ciao Vittorio, buonasera, ben sentito. Io mi stavo ascoltando poco fa, ma è venuta gente, così che vi devo lasciare, sono ritorno perché ho visto che è chiamato Luca, ma c'è gente, dai, chiacchierate, ya, ci sentiamo eventualmente, o più tardi o sarò domani, ok, Lu, riprendi tu, dai, con la buonasera, circolare, vai. Oh, mi senti domani, con la radio, mi senti, va bene, Lu, già ti sento bene. Eia, va bene, ok, già siamo qua. Vai, vai, tranquillo. Luca, uscire devi. Aspetta, sta provando anche radio, Luca. Luca, ma l'altra radio stai provando di prima? Capito, vai. Ma chiesto se sta riuscendo bene. Ma ha cambiato radio, vivi. Prova un altro passaggio. 1, 2, 3, 3. Oh, va bene, dai, va benissimo lo stesso. Va bene Lu, dai, buon proseguimento, ciao. Questa, dai, tanto quella là. Sì che ti sento, più bassino ma già ti sento. Vabbè, contenta cosa che sia chi. Vabbè, siamo vicini, io sono dall'altra parte adesso, dai. Sì, a sentire già ti sento, in carriera sì, già ti sento. Oh, vabbè, grazie, grazie. Sono al Luca. Luca, e tu mi bari questa Santa Maria di Pisa. E si sente che a 6 anni quando mi metto fuori, cioè, diciamo che non sono proprio vicino ai palazzi e quindi si sente bene. A te sì, anche a Grazzano, vi sento chiaro chiaro. Io che non arriva bene, ma mi senti adesso? Io sto sempre. Lo stesso. Eia, io ti sento. Sì, tu ti sento bene, anche a Graziano sto bene. Buona passeggiata se sta andando a Girella. Senna, perché io, essendo anche al terzo piano, cioè non arriva bene il segnale, capito? Aspetta un attimo. Eia, io ci sono. Cos'è Lu? Cos'è di disegno? T'ha già inteso? Graziano, mi senti? Sì che ti sento! Ora vedi che funziona, vediamo un po', Gio Maria mi senti? Gio Maria c'ha gente! Aspetta, grazie! Gente c'è infatti, sì che ti sento, Lu! Tanto poco fa che ti sentivo bene ugualmente! Ho capito, dove sei tu? Dove sei, Vittorio? Io, al Salesiani. Ma io sono fuori dal cancello. Fuori dal cancello, aspetta che sto arrivando. Alla giugna da Luca, mamma mia, arrivo a cuore in voce, mamma mia, grazie. Falli picchiare. Ma grazie, ma fa ragioni, ma no, non andava per punti così. E poi cosa si spende, grazie? Ma Graziano, mi senti? Ehi! Sì che ti sento, dove sei? Sì, a Salesiani! Luca, già ti sento, dove sei? Io sono alla Conad! Già ti sento! A Vittorio lo sei! Aspetta, di Vittorio, mi senti? Sì, Luca, mi ricevi? Eia, a voglia! Però adesso ti sento a tratti! Pure io, Luca! Fa a fare questo, ci senti a tratti, non ci senti, perché stiamo più lontano! Vabbè, da, io chiudo Vittorio! Ciao Luca, ciao Gian Maria, ciao chi è in ascolto! A domani se coincide, bye bye! Ciao, ciao, grazie, ti intendiamo, domani ci tutto concede bene. Ciao Luca, se mi senti. Ciao, ciao.